Io sono qui, io sono qui, io sono qui, io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui, di Matteo Caccia. Vediamo Patrizio partire al semaforo e poi sparire dentro ad una via. Mario parte all'inseguimento dicendo aspettatemi qui. Svolta anche lui, torna dopo 10 minuti con la faccia sconsolata e dice è sparito. Sono Enrico, ho 48 anni, vivo a Milano, sono sposato con Stefania, abbiamo un bellissimo bimbo che si chiama Filippo. Faccio il falegname e il mio hobby è viaggiare, possibilmente in moto. A proposito di mail di accompagnamento che appunto accompagnano le storie che ci arrivano, caro Matteo, diceva Enrico nella mail che mi ha mandato, ti premetto, come in tutte le città di provincia, ci conosciamo un po' tutti, quindi quando in città si parla dell'avvenimento che sto per raccontarti, tutti se la ricordano come la vacanza a Barcellona di quelli del Pino, nome derivato dal luogo dove ci ritrovavamo in piazza, proprio sotto ad un pino. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, siamo in diretta da Milano, sono le 16:09:30 secondi in punto, oggi è un bel mercoledì, prima di cominciare di raccontare la storia di Enrico e di quelli del Pino, appunto, noi eravamo quelli delle poste, per dirci, perché ognuno aveva, le compagnie avevano un luogo di ritrovo, se volete condividerlo siamo qui, 349-238-6666, la vostra compagnia si chiama quelli del muretto erano i ragazzi del muretto. È durata un po' di anni anche quella serie. Il nome della vostra compagnia, ma anche un chi se ne frega, perché vi dicevo, oggi è mercoledì, domani è giovedì 11 dicembre e come vi stiamo raccontando da un po' di giorni, domani facciamo una sorta di, chiamiamolo così, di live natalizio. Quindi siamo in diretta alle 16 puntualissimi, visibili e... mi verrebbe a dire toccabili, nel senso che siamo lì, poi adesso non è che vi invitiamo a farlo, dal negozio della Pirelli o dal flagship store di Corso Venezia numero 1, quindi Piazza San Babila, pieno centro di Milano, a raccontare storie di Natale. Domani a Milano sarà una bellissima giornata, lo dico senza saperlo, ma lo controllo al volo, guarda, domani, abbiamo già controllato, ma guarda, lo faccio anch'io con la mia, eccolo qua, bah, guarda che sole che c'è domani, una nuvolettina, insomma 7 gradi ci sono domani, e alle 4 ci sarà sicuramente quella temperatura. Vi fate un giro per la città e vi venite a sentire e a vedere una storia che parla di un regalo di Natale molto particolare. Per l'occasione di domani l'autore, anzi autrice della storia, sarà lì con noi e la racconteremo insieme a lei. Domani alle 16, puntuali, se volete iscrivervi fatelo attraverso il nostro sito. Voi siete qui, sulla pagina ovviamente di Radio 24, c'è scritto Pirelli Live, ci cliccate sopra e compilate tutto. Sono intanto le 16:11 e volevo appunto raccontarvi la storia di Enrico, che parla, oltre che di una vacanza, oltre che della vacanza a Barcellona di quelli del Pino, parla soprattutto di un amico. Infatti la storia era stata inviata con questo titolo: Barcellona con Patrizio. Patrizio è l'amico che di fatto la compagnia si porta dietro. Sapete quando a un certo punto non si capisce bene come, qualcosa sfugge di mano e salta fuori uno, e succede proprio così nella storia di Enrico, che dice... oh ragazzi, mi ha chiesto di venire, non sapevo cosa dirgli. 349-238-6666, vi sarà capitato di trascinarvi dietro un amico che poi magari non è proprio un amico, però in fondo lo è, cioè non può neanche essere chiamato un conoscente, in vacanza, in un'avventura strana, durante un viaggio, insomma alla fine ve lo siete portati dietro e un po' vi siete anche pentiti e magari è anche successo qualcosa. 349-238-6666, la vacanza di quelli del Pino a Barcellona, e intanto vabbè arrivano i nomi delle compagnie, i Butei de Piazza Zara, che immagino sia dalla parte del nord-est di questo paese. 349-238-6666, si parla di amici che un po', ragazzi, me l'ha chiesto, non sapevo cosa dirgli. Lui è Patrizio. Estate 1987. Sei ragazzi, tre moto. Si organizza una vacanza a Ibiza, che poi, per i motivi che seguono, diventerà Costa Brava. La prima vera vacanza in moto. Mario, mio carissimo amico, a 2 giorni dalla partenza, se ne esce con una frase che nessuno di noi avrebbe voluto sentire. Ce vuole venì anche l'urosa. Patrizio. Patrizio, detto appunto Lurosa per motivi mai ben precisati, è un bravissimo ragazzo, ma diciamo un tipo tutto particolare. Mi spiego. Una famiglia un po' strana, con dei modi di fare strani, e lui a seguire con problematiche di rapporti interpersonali e comportamenti bizzarri. Nulla di pericoloso, ma diciamo non completamente a posto. Quindi noi sapevamo che avremmo dovuto badare a lui, altrimenti sarebbero potuti venire fuori dei guai. Dopo un po' di discussioni ci troviamo d'accordo, più o meno, nel portarlo. Si parte. Di buon mattino. A questo punto siamo in 7, con 4 moto. Patrizio è con la sua Aprilia 350 Dakar, non proprio un gioiellino. E infatti, a mezzogiorno, siamo ancora a Perugia, 50 km fatti in 7 ore, con la moto di Patrizio da un meccanico, perché nessuno dei due freni funzionava più. Patrizio è sempre stato un ragazzo particolare, buono, un bravo ragazzo, ma sembrava che vivesse su una nuvoletta tutta sua. Un po' trasandato, un po' che faceva discorsi un po' sfasati, ma senza mai aver fatto male a nessuno. Sono un po' di anni che non lo vedo, ho avuto notizie di lui che vive in una casa famiglia, sta bene. Alle 14 riusciamo a ripartire. Firenze, Genova, Monte Carlo. È oramai notte, ci fermiamo, armati di sacco a pelo. Siamo in una spiaggetta sotto ad una scogliera. Ci svegliamo la mattina, ore 7, e ci rendiamo conto di avere pernottato in una spiaggia nudisti. Un po' imbarazzati, raccogliamo velocemente le nostre cose e ripartiamo dopo una veloce colazione. Dopo un'altra lunga tirata e qualche sosta veloce, arriviamo a Barcellona. C'è il diluvio universale. Entriamo imboccando una strada di almeno 15 corsie che si chiama La Meridiana. Ci guardiamo in faccia e decidiamo di trovare un riparo, anche momentaneo. A destra, uno dopo l'altro, scorrono gli hotel e i loro parcheggi annessi, ma noi, avendo imboccato la corsia centrale, non abbiamo che la possibilità di andare dritti. E ad ogni semaforo, un vigile fa rispettare questa regola. Intanto continua a diluviare, non ce la facciamo più. Mario, davanti a tutti, decide a un certo punto di svoltare, approfittando del fatto che il vigile era di spalle. Dietro lo segue subito Umberto. Intanto il vigile si accorge e si gira proprio nel momento in cui passo io e tira fuori la pistola. Giuro, la pistola. E ovviamente blocca Patrizio, ultimo della fila. Noi ci fermiamo e assistiamo allibiti alla scena dal bordo della strada. Il vigile gli si mette davanti e con fare deciso gli indica la direzione. Dritto. Non lo redarguisce nemmeno, vuole solo che vada dritto. Vediamo Patrizio ripartire e tiriamo un sospiro di sollievo immaginando la possibile discussione in spagnolo di Patrizio e il vigile. Comunque va dritto e al semaforo dopo fa quello che noi avevamo fatto prima. Gira, poi sparisce dentro una via. E ora che cosa facciamo? Mario parte all'inseguimento dicendo aspettatemi qui. Svolta anche lui, più o meno dove aveva girato Patrizio. Dopo 10 minuti, rieccolo, con la faccia sconsolata, dicendo «è sparito». Ovviamente cellulari nell'87, nemmeno a parlarne. Decidiamo di fermarci lì, avendo visto un albergo a 10 metri. Entriamo, prendiamo una sorta di appartamentino, a due stanze. Ci sistemiamo, facciamo una bella doccia e poi intorno a un tavolo ci guardiamo in faccia. Che cosa facciamo? Lasciamo le moto davanti, sul marciapiede, nonostante l'albergatore ci avesse consigliato il garage che era compreso nel prezzo. Ma se Patrizio fosse ripassato di lì, le avrebbe viste fuori. Usciamo, facciamo un giro in centro e poi per le Ramblas. A Barcellona si va lì. Ci guardiamo intorno, ma è come cercare un ago in un pagliaio. Passano 2 giorni. Di Patrizio nessuna traccia. Facciamo denuncia alla polizia. Telefoniamo a casa spiegando che cosa è successo e chiedendo per caso se lui ha chiamato a casa. Niente, scomparso. Io lo avevo detto di non portarlo, questa è la frase ricorrente ed è sempre la stessa. Seduti davanti al bar la discussione si accende, rischiamo di litigare. Cosa facciamo? Proseguiamo? Andiamo al mare? Ma no, come si fa? Ma non possiamo abbandonarlo? Ma tanto cosa possiamo farci? Ma va, ci fa fare, fa fare una finaccia, non c'è con la testa. Insomma, alla fine decidiamo, io resto qui. Poi, all'improvviso, un flash. Umberto si alza, lo vede e inizia a urlare: Patrizio, Patrizio! Guardiamo, è lui, è fermo al semaforo a 20 metri da noi. Diventa verde e lui riparte, senza guardarci. Lui guardava avanti, stava, era in moto, fermo al semaforo, e noi eravamo seduti al tavolo, al bar, a cercare di capire quello che avremmo potuto fare in quella situazione. Eravamo ragazzi, avevamo fatto tutto quello che potevamo, chiamato la polizia, chiamato i familiari, e c'era chi di noi voleva continuare la vacanza, era in dubbio se continuare a cercarlo o no, ma Barcellona è grande. Tutti insieme corriamo verso di lui, urlando «Patrizio, Patrizio!». Finalmente ci sente, si ferma, lo raggiungiamo. Da sotto il casco si vede già che è sconvolto. Lo tranquillizziamo, lo facciamo sedere. Lui balbetta, è stravolto. Non riusciamo a capire quello che dice. È sporco, è trasandato. Lo portiamo in camera, si fa una doccia. Gli diamo qualcosa per vestirsi, gli chiediamo cos'è successo, ma niente, non si capisce nulla. Ci racconta di una stanza sulle Ramblas. E allora ci facciamo accompagnare. Ci porta in una pensione, sembra il Bronx. Signora cicciona in vestaglia che fuma all'ingresso. Facce poco raccomandabili che ci guardano male. Sporco dappertutto. Prendiamo la sua roba. Ha già pagato, ci dicono. Lui non parla. Farfuglia qualcosa, ma noi non riusciamo a capire. Scopriamo che non ha più un soldo in tasca. Chiediamo spiegazioni. Ci dice con qualche parola qua e là, insomma si fa capire, dice albergo, benzina. Insomma, devono averlo fregato in qualche modo. Eppure, oggi, a 27 anni di distanza, noi non abbiamo ancora capito che cosa sia successo in quei due giorni. Per concludere, abbiamo fatto una colletta, lo abbiamo portato con noi due giorni al mare e poi, quando sembrava essersi rimesso un po', parlando con il fratello a casa, abbiamo messo sia lui sia la moto su un treno e lo abbiamo rispedito a Spoleto. Il premio per la foto da mandarci lo vince decisamente Enrico, che ci manda una foto fantastica in cui lui è insieme, credo, ad altre 20 persone e bisognerebbe segnarlo col circolino rosso. Per questo Miriam Lucchetti prima è venuta qua dicendomi è lui, e lo vedi questo qua in fondo? Ecco, è lui, è quello, è quasi a capotavola, è di fianco alla capotavola. Sono un gruppo di giovani attorno ai 50, direi più o meno, tra i 40 e i 50, sono ad una cena e così a naso potrebbero essere la compagnia che è andata in moto a Barcellona. Ciao Enrico, buongiorno. Ciao Matteo, come stai? Bene, tu come stai? Bene, bene. Dove ti trovi Enrico? In questo momento sono salito in casa, io ho casa sopra l'Abrodorio. Ah, giusto. Tranquillo, sono salito in casa. Bravo, perché sei falegname, giusto? Sì, faccio il falegname. Che tipo di lavoro fai? Sei specializzato in qualcosa o? No, faccio mobili di qualsiasi genere, riparazioni. Ho un piccolo laboratorio a Milano, in zona limitrofa al centro. Ok, quindi si lavora, insomma? Sì, non mi lamento. Okay. Lavoro, ma abbastanza bene. Enrico, quindi sei trasferito a Milano da Spoleto, di fatto? 13 anni, sì. Sono 13 anni che sono a Spoleto, a Milano. A Milano. Invece, senti, lo hai già detto di Patrizio, però abbiamo notizie, sappiamo dov'è, sta bene quantomeno. Sta bene, sì, sta bene. Parecchio che non lo vedo io, perché stando a Milano, lui a Spoleto ci capita raramente, credo che sia a Foligno, mi sembra, di sapere dalle ultime notizie. Ci sono miei amici che lo contattano e sta bene. E sta bene. Insomma, dalle parti di Tiziano Bonini. Sai che sei conterraneo del nostro Tiziano, sì. che è di, vabbè, tu sei di Spoleto, lui è di Foligno. Enrico, la scena del vigile, partiamo da lì, ti prego. La scena del vigile che punta la pistola. Guarda, io non me la riesco a spiegare ancora, perché non esiste che un vigile punti una pistola per fermare, però ti giuro l'abbiamo visto questa scena, è successa questa scena. Prima no. Si commentava insieme a Tiziano il fatto che questo racconto è una bella fotografia della Barcellona pre-Olimpiadi, nel senso che Barcellona è diventata un luogo figo da visitare, da andarci a vivere, sostanzialmente dopo le Olimpiadi. Prima era una città che aveva in alcuni quartieri zone anche probabilmente pericolose. Sì, non c'era nemmeno la spiaggia a Barcellona. Adesso c'è la spiaggia, allora non c'era nemmeno la spiaggia. Senti, tu che ricordo hai della città, quindi al di là di questo evento che ovviamente ha catalizzato la memoria lì su Patrizio? Però... era una Barcellona diversa da quella che mi raccontano adesso, io non ci sono più stato, però era una Barcellona molto più, come dici tu, e in certi quartieri era una Barcellona pericolosa, probabilmente era per quello che il vigile era armato di pistola. Però comunque una grande città, le Ramblas con le serate piene lungo queste strade, locali poco raccomandabili. Ma senti, oltre all'Aprilia Dakar di Patrizio, che moto avevate voi, te le ricordi? Io ero con un Honda XL 600 prestatami da un amico. L'Honda XL è l'enduro, giusto? L'enduro, sì, eravamo tutte enduro. Poi c'era un'altra Aprilia 350, mi sembra un XC600 Yamaha. Ah, ok, insomma, le moto dell'epoca, alcune con avviamento a pedale forse addirittura. Tutte con avviamento. Forse l'Aprilia 350 aveva già avviamento elettrico, ma tutte, la Honda sicuramente l'avviamento a pedale, l'XT600 l'avviamento a pedale sicuramente. È una passione che hai mantenuto la moto? Sì. La moto ce l'ho ancora, ho un Kawasaki da strada 750 adesso, però purtroppo viaggiare in moto con un bambino piccolo è un po' complicato, bisogna farlo crescere un po' per caricarlo sulla sella. Sì. Enrico, grazie ancora, in bocca al lupo per tutto. Di niente, grazie. A presto, a te. Ciao, grazie. Ciao, grazie anche tu, ciao. Insomma, alla fine della storia di Enrico ho capito che, primo, la vacanza in moto da ragazzi è una roba che se non la fai forse ti senti un po' meno uomo. Secondo, l'etimologia dei soprannomi nei paesi o nelle piccole città spesso è meglio non verificarla. Terzo, il vigile che tira fuori la pistola per farti proseguire dritto manco nei film di Tarantino. Quarto, quando qualcosa va storto ti dà sempre il destro per una storia da raccontare. E quinto, secondo me, il rosa sa bene che cosa è successo, ma semplicemente non lo vuole raccontare. Quindi, per gli amici, cioè io sono Sprizzo, la nostra compagnia si chiamava Barlusi, anni 80, io organizzavo sempre delle cene con Gadget, sebbene... Cioè che portavi il gadget, ma sei un genio di tutti. Sebbene abbia tre figli e un'attività. Invece quelli che sono rimasti da sposare non organizzano mai niente. E anche ultimamente sono uscito con questi, ma credimi, invece di essere dei single rampanti, sono già anziani. Ciao Matteo e tanta salute anche a te. La mia compagnia si chiamava i Gallinacei, poiché giovani scout frequentavamo il bar da gallina. Ma... non ho capito, sarà il bar gallina sarà un cognome. E poi ancora i Cirrosi Group, il nostro gruppo si chiamava i Ragazzi del Casotto, gruppo di fuoco anno 68, specialità risse e cose poco legali. Beh, Max da Bergamo è il nostro amico che spesso ci scrive. E poi l'ultimo dice: ciao Matteo, un saluto dai Busunaz di Bologna, di cui non voglio sapere altro. Ringrazio però Tiziano Bonini, ringrazio Miriam Lucchetti e ringrazio Paolino Corleoni. Ovviamente, non azzecco le lettere oggi, ragazzi. Ovviamente, quindi, ringrazio soprattutto Enrico. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Giulia, vivo a Mirandolo Terme, in provincia di Pavia. La storia di domani è la mia e parlo delle mie sensazioni della vigilia di Natale quando giro coi giovani bandisti del paese per far visita ad anziani soli. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui.